finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Tondo. Anche, anzi, era proprio in quell'istante che l'ho detto, 23.00.00. Fa un caldo bestia, Radio Onda Rossa. Noi ingrandiamo i caratteri. Facendo control e ruotando la rotellina del mouse per riuscire a vederci. Direbbe il Caronte, che sicuramente non è all'ascolto, che scena pietosa. Però che dovete fare? Malgrado che andiamo ancora in giro con un portamento da giovanotti, da Pischelli, Pischelli più non siamo. Tutti bianchi, tutti canuti, quel poco di peluria che è rimasta. Eppure dai, ci proviamo, ci illudiamo di stare ancora sulla breccia. 25 controlli, 25 o'clock ai controlli, senti come stiamo. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza sulla banda romana e laziale. Da 42 anni. Voglio vedere. A tenere una radio, un emittente. Mentre i media in questi anni si moltiplicavano, c'erano, quando ho aperto la radio, c'erano tipo due televisioni, Rai 1 e Rai 2. Adesso ce ne stanno un miliardo. Quando ho aperto la radio c'erano le musicassette e i vinili. Adesso la musica l'ascolti dove, quando, come, in tutti i formati, pure telepaticamente fra un po' l'ascolti. Quando ho aperto la radio c'avevo un trasmettitore valvolare. Ora abbiamo un trasmettitore allo stato solido. Andiamo un po' su internet, il mixer era diverso. Quando ho aperto la radio ci si telefonava al telefono fisso di casa, il bigrigio, quello con il disco combinatore. Adesso ci mandiamo dei sample audio su WhatsApp. Anzi, scusate, vi mandate dei sample audio su WhatsApp. Quando ha aperto la radio, d'estate faceva un caldo boia. Oggi fa un caldo boia. Va bene. 23.03, abbiamo messo da parte la campagna di finanziamento 30 per 1000, abbiamo voluto comunque mandare uno spot della campagna perché spiegava bene comunque qual era e qual è la situazione economica della radio. E cioè andiamo sempre avanti che, come si dice, andando avanti per uno, insomma. E quindi dovete continuare a sostenere la radio in tutti i modi, non ultimo quello economico. Quindi chi non ha aderito alla campagna, eccetera, perché stava, non c'era, perché non c'aveva i soldi, perché era disoccupato, perché o disoccupata, per quello che vi pare, insomma, rimangono aperti i canali 1 via De Volsci 56 a San Lorenzo, si sale al primo piano col soldo in bocca. e si sottoscrive per la radio. Due. 61 80 40 01 il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00185 Roma San Lollo. 3. Venite alle iniziative della radio che promuoviamo di tanto in tanto, di volta in volta. La prossima, e ve ne parleremo fra poco, 28 giugno, Forte Prenestino. Ondarossa@ondarossa.info la mail, www.ondarossa.info il sito, anche per i podcast e lo streaming. 25oclock@ondarossa.info, 25 scritto al numero, per disturbare, molestare, insultare il sottoscritto. 0649 1750, recapito, telefonico. E questa roba qui è sparata a palla, era una distorsione che ci serve per riparare il mixer. Per cui ve la mandiamo da capo. Onda Rossa 0649 1750, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo. Fate sentire che ci siete. 25 o'clock Radio Onda Rossa, china da capo questi anni. Eccolo che arriva, quindi ancora da capo, ma tanto la risentirete tante tante volte nel frattempo qua. Prendiamo un atteggiamento non consono, come diceva una stupida, vabbè, cose che non sapete, non potete sapere. Comunque da capo questi anni, china 1989. We'll be right back. myself to sleep tonight. Broken in my broken heart, from the two of them left to part. It's a broken on my broken heart. Now you know just how it feels as I cry myself to sleep at night. 14 minuti primi, quindi dopo questi anni dei Kina passiamo dall'altra parte dell'oceano, nel nord degli Stati Uniti. Non potevano mancare associati ai Kina, per molti volte i Kina sono stati affiancati a loro, una volta ci hanno anche suonato insieme, penso ad Amburgo o qualcosa del genere, se non andiamo errati. E stiamo parlando di Oscar Du. E dato che parliamo di Kina e del prossimo tour che stanno già facendo, insomma è iniziato qualche giorno fa, il 6 di giugno se non andiamo errato, partendo proprio con la prima tappa da Aosta. Città natale e base dei Kina, che però migrarono presto da capoluogo della Val d'Aosta. E andiamo a leggere proprio dal loro sito una, così, una breve cronostoria, tanto per dare un po' di riferimenti a chi malauguratamente non conosca ancora la band di Sergio Giampiero e Alberto, che più volte si è incrociata con la radio. Il gruppo si forma nel dicembre dell'82, il primo concerto è nel gennaio dell'83, fin dall'inizio molto attivi nel circuito punk, anche se credo che nel gennaio dell'83 con un nome diverso. Fin dall'inizio molto attivi nel circuito punk anarchico italiano, hanno subito la possibilità di suonare in numerosi centri sociali di tutta Italia. Nell'estate dell'84 si svolge la prima tournée in Germania, seguita in breve da una seconda nel dicembre dello stesso anno. Nella primavera dell'84 viene fondata la Blue Bass Dischi. L'etichetta, allora, dato che è Dischi, sarà Blue Bus, comunque. L'etichetta è formata dalle idee e dal denaro dei due gruppi, i Kina e i Franti. Nasce qui un'amicizia e una collaborazione che dura tuttora, anche se in forme diverse. Franti e Ombra, infatti, se non ricordate male, i Franti in una forma appunto altamente rimaneggiata con Stefano Giaccone e il resto del trio, adesso attualmente rimaneggiato. non c'è più Lalli ovviamente, che ha intrapreso una carriera solista, e gli Ombra suonarono proprio al Forte Prenestino. Gli Ombra invece di Sergio Milani, batterista dei Ghina e dei Frontiera. Il primo LP dei Ghina è Irreale Realtà, e anche il primo LP della Neonata Blue Bass, che esce nel gennaio dell'85. Nel medesimo anno, oltre alla normale attività concertistica italiana, si svolge anche il primo tour in Olanda assieme ai CCM e Negazione. Nell'86 esce il secondo LP, che si chiama Cercando, in Italia per la Blue Bass e contemporaneamente in Inghilterra per la COR. È sempre nello stesso anno il primo tour europeo del gruppo, che da ottobre a dicembre fa 33 concerti suonando in Spagna, Svizzera, Francia, Germania, Olanda, Belgio e Danimarca. Alla fine di questo tour viene registrato in studio, in uno studio di Lubecca, il 7 pollici Troppo Lontano, che uscirà per la Blue Bass nell'aprile dell'87. Nei due anni successivi seguono diversi concerti all'estero, numerosi concerti in Italia e la pubblicizzazione dello split 45 giri con gli Sphere, Come tu mi vuoi. E nell'89 il successivo tour in Germania, in cui segue la pubblicazione del 12 pollici Ghina più Outcastles, che vede i Ghina alle prese con gli strumenti e Stefano e Lalli, ex Franti, alle voci, e la pubblicazione del terzo LP Se ho vinto, se ho perso. Tutto il 90 viene dedicata alla promozione di questi due dischi, con intensa attività concertistica in Italia e all'estero. In maggio un concerto viene registrato e pubblicato sul disco con il titolo The Your Choice Live Series, dell'etichetta tedesca che porta lo stesso nome. Segue un nuovo tour europeo che tocca Germania, Danimarca e Norvegia. In questo tour i Ghina sono affiancati da Stefano Giaccone alle voci, chitarra e sax. Catturando l'atmosfera di uno dei concerti del tour, viene pubblicata la cassetta live La Gioia del Rischio. Nel 93, dopo essere stata rimasterizzata, viene pubblicata anche su CD. In settembre Alberto abbandona l'attività musicale e viene sostituito da Marco, ex Atelier Nouveau, mentre la neonata etichetta Circus, emanazione della Blue Bass e lanciata nella promozione di nuovi gruppi italiani, pubblica il suo primo prodotto, il 7 pollici di compilazione Klein Circus, con Ghina, Modhouse, Eversor e Paul Chain. Poco dopo esce il 7 pollici Mondo Mai Visto, diviso a metà con i Tarantini Act. Il disco viene anche allegato alla rivista Urlo. Durante l'estate i Ghina si cimentano in un tour italiano che li porta con una dozzina di concerti dal Trentino alla Sicilia. Nel frattempo Stefano Giaccone diventa ufficialmente il quarto dei Ghina. Con questa nuova formazione viene registrato il 45 giri Bico, che esce per l'etichetta tedesca X-Mist. Per festeggiare il decimo anno di attività, nel dicembre del 92 si svolge al centro sociale occupato Il Paso di Torino un memorabile concerto al quale partecipa anche Alberto e nel quale viene rappresentato tutto il repertorio dei Kina. Nel gennaio 93 esce l'attesissimo quarto LP Parlami Ancora su Bass e parallelamente su X-Mist. Dopo l'ennesimo tour in Germania sul finire del 93, Stefano annuncia il suo ritiro dalle scene. E ci ha raccontato proprio qui in un'intervista in diretta a Stefano Giaccone che il suo ritiro dalle scene ha coinciso con la sua partenza per emigrazione, possiamo dire, in Gran Bretagna. Quindi nel 93 Stefano annuncia il suo ritiro dalle scene e l'occasione è buona per Alberto di rientrare in un organico per il gruppo intero e per il gruppo intero di prendersi un po' di riposo, chiudersi in sala prove e preparare qualcosa di nuovo dopo la ristampa CD di tutto il materiale già pubblicato su vinile e la nuova tournée italiana nel mese di maggio del 94. Vale la pena di ricordare anche la partecipazione del gruppo al concerto per Silvia Baraldini tenuto al Villaggio Globale di Roma nell'estate assieme a Bisca, 99 Posse, Casino Royale, eccetera. Il 95 inizia con una serie di concerti in Germania, Olanda, nonché la stampa sul vinile dell'ormai esauritissima cassetta Nessuno Schema Nella Mia Vita, contenente le prime registrazioni di Kina firmate nel lontano 1984. In maggio, dopo insistenti invii che si susseguivano ormai da anni, il gruppo accetta finalmente di fare un tour in Polonia, dove alcune etichette indipendenti hanno già pubblicato i lavori di Kina. Il rientro dal tour coincide con la data di Milano assieme ai Fugazi. Con la fine del 95 i Kina fanno uscire un nuovo 7 pollici split assieme al gruppo hardcore The Crew. Il disco inserito nella collana Singer Club di Blue Bass prima fila contiene un brano nuovo di Pacca e l'ormai celebre cover dei Ribelli Chi mi aiuterà ed il CD Troppo lontano e altre storie, raccolta di materiali ormai introvabili uscito su 45 giri, su compilazioni varie inedite registrate e mai pubblicate nel corso della lunga carriera del gruppo. Durante il 96 la band è stata impegnata in una serie di concerti un po' per tutto il nord e centro per promuovere il nuovo LP CD Città Invisibili, uscito all'inizio nel maggio del 96. All'inizio del 97 si è svolto l'ultimo tour in Germania con 10 date fissate dal 16 al 25 gennaio. Nel maggio di quell'anno l'ultimo ingresso in studio per registrare con Diego due covers degli Asker 2 e poi pubblicate sulla compilazione Asker 2 Land Speed Sonic. E vedete quindi che tutto ritorna. passione! Tutto bene. poi vi dico cosa abbiamo mandato, non vi preoccupate, 25 O'Clock Radio Onda Rossa sta cercando De China. Allora, cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato un po' di cose per che stanno anche a significare, come quel tracciato di quegli anni, dei primi anni 80. A seguire poi fino ai primi anni 90, a metà degli anni 90, hanno visto la scena hardcore di Torino associarsi alla scena hardcore o più punk forse di Milano, alla scena hardcore di Pisa, a quello che era il movimento di Bari, insomma di Bologna. C'erano diversi posti dove nascevano band, e c'è il libro di Stefano di Stefania. E Gian Piero Capra, che racconta un po' romanzato, insomma, andando a intersecare due storie differenti. Ne abbiamo parlato proprio qui in radio con due registrazioni che abbiamo disponibili anche in rete. Basta digitare su www.ondarossa.info, sulla casella di ricerca Chiina, Gian Piero Capra. Ed escono due registrazioni, una fatta qui in studio in una serata molto impegnativa in cui ospitammo da una parte Gian Piero Capra. Libro che si chiama Come macchine impazzite, pubblicato un po' di anni fa, appunto, Stefania Giacobone e Gian Piero Capra, che raccontano un po' la storia dei China, con inserti anche degli altri, di Alberto e di Sergio e di altri ancora, che più o meno nuotavano intorno a quella scena. Credo ci sia pure we'll be right back. ci siano pure altri pezzi, un po' di tutti quelli che appunto, che Stefano, Giaccone, insomma tutti quelli che suonarono in qualche maniera e aiutarono e sostenerono i Kina in tutti quegli anni. Una serata impegnativa, perché nella stessa sera appunto presentammo il Fantasma, fece la sua parte presentando appunto questo libro, e poi intervista doppia in studio con gli ultimi, i Klaxon, che presentarono all'epoca il loro lavoro, il loro split. Non priva, tra l'altro, una doppia, tripla intervista, quadrupla intervista di anche un po' di sana polemica di quegli anni, appunto fra Roma, la scena romana, essenzialmente skinhead e clash dipendente, invece quella più anarchica del nord, del Piemonte, di Milano. Interessante, andare a ascoltare. Un dolore, non chiedermi perché, non c'è mai primavera nei miei occhi, sono fatti miei, il tuo cervello non esiste, solo musica e divertimento. Allora, però avevo fatto questo intermezzo a voce per dire altre cose, cioè che abbiamo ascoltato, appunto, parlavamo degli ultimi, abbiamo ascoltato questi anni cover rifatta dagli ultimi. Poi una cover dei Palcoscenical Neon, una delle più riuscite, quando la suonavano, suonano, non sappiamo, in concerto, è una di quelle che scatena di più chi poca là sotto, con cori e entrate al microfono. Quindi Brucia di vita di Negazione, risuonata dai Palcoscenical Neon. E poi ancora suoneranno anche loro, non potevano non esserci, il gruppo che più è tributario della storia, delle sonorità, dell'approccio, dell'attitudine che hanno in qualche modo solcato i tre nostri ex ragazzi, come amano definirsi, di Aosta, e che sono i Nofu, da cui abbiamo ascoltato Qui ed Ora. E poi di seguito tutta questa selezione tratta da Cercando, RR Bar e Il Confine, l'abbiamo ascoltati per intero. Ritorniamo ancora sulla scena piemontese, Torino, Negazione e Vergelli Indigesti, queste due tracce, una di seguito all'altra. Tutti pazzi per Negazione. Fragile costruzione mobile per Indigesti, da capo Negazione, dai. Tutto tutto questo non fa per me. Non fa per me, non fa per me. Una guerra, una morte, grande corsa verso la morte, grande corsa verso la morte. Tutti pazzi, tutti con te. State morendo, state morendo, state morendo. Tutti pazzi. Cercano se inventa madre, tu che sei dolce, storie maurite di felicità, questo sonno ci prenderà, suoni lievi, la tua voce. Mattina piove piano, me li vedo in marciapiedi, trasparenti il buio e i neon, è solo un altro giorno. Ti svegli e sei dentro un sogno, e dici dormi, guardi l'ora, una piega cancella il tuo viso, suoni lievi la tua voce. Una mano tatuata sul palmo e fredda e notte dai rodi, sembra una notte come tante. strada è sempre uguale. Tre 59 minuti primi, 25 o'clock, Radio Onda Rossa, proprio sull'orlo del giorno. Dopo le loro voci di Franti, questo è ancora il sax di Stefano Giaccone, il battito del cuore dal giardino delle 15 pietre. Profondità dell'angoscia e dove la ricerca deve tuffarsi, ardere, giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra, giù profondamente, dove la collera cresce violentemente, La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari, forte come il tuono, calda. Il cammino non può essere che di sangue, la canzone del fango rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva. Di carattere culturale ma anche un po' punk. Potete prendere le vostre tavoline e poi potete spaccare tutte le pietre che volete. Venerdì 28 giugno 2019, China in concerto. Dalle 19, presentazione del documentario sul China Se ho vinto, se ho perso. E a seguire, concerto con Nofu, Bomb Machine, Greve e China. Ingresso 5 euro a sostegno di Radio Onda Rossa al CSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino 100 Celle. Affrettatevi, perché la china è di china. Questi erano i Nofu, che suoneranno sempre al Forte Prenestino il prossimo 28 di giugno assieme a Greve, China e The Bomb Machine. Però dobbiamo dire quel che è ancora più importante del prossimo evento, perché ha tutte le caratteristiche di essere un evento, un ritorno, un incrocio. E ci auguriamo che siate tantissimi, tantissimi e tantissime al Forte per questa serata che vede insieme due percorsi che si sono spesso incrociati, quella appunto dei China nelle loro varie forme e nei musicisti che hanno più volte suonato qui a Roma per noi. E invece delle impellenze, perché se ci sono i centri sociali, se ci sono le case occupate, questo è dovuto a anni, a decenni di lotte. Che sono iniziate quando il movimento era in forte espansione, quando la richiesta politica e sociale era un grande avanzamento in quegli anni 70, ormai così un po' mitizzati. E invece la permanenza stessa di questi spazi di libertà, questi spazi dove è possibile creare, immaginare una vita degna di essere vissuta, che partono appunto dai bisogni che sono quelli dell'aggregazione, dai bisogni semplicemente di avere un tetto sulla testa, che non sia un ricatto economico, verso tutti e tutte non sia la spesa della vita il motivo per cui si lavora, pagarsi un mutuo, affittare o pagare un affitto, una pigione come si diceva molti molti anni fa, che è praticamente equiparabile a quanto si guadagna in un mese. Ecco, tutto questo può essere semplicemente vanificato con una lista, con una sterile lista che non è quella come negli anni passati di in qualche maniera inglobamento, assegnazione, neutralizzazione di queste esigenze, quindi andando così un po' magari a spaccare il movimento stesso, ma semplicemente una lista di sgomberi, un ordine attraverso il quale si decide chi sgomberare prima, chi dopo. E quindi piazzare questa spada di Damocle sulla vita di tutte e tutti coloro che non si trovano ai primi posti, ma si trovano agli ultimi posti della società. E non è che occupano perché così sono teppisti, come gli piace dire, sono dei criminali, ma bensì per soddisfare dei bisogni umani, materiali, dignitosissimi, vitali, come dire. Per cui sabato 22 giugno 2019, corteo per una città aperta, solidale contro gli sgomberi, alle ore 16 da Piazza Vittorio, Roma non si chiude. Perché tutto questo nostro essere, questo nostro fare dipende dagli spazi che ci siamo presi, che abbiamo liberato alle grinfie del mercato e del capitale. Quindi sabato 22 giugno tutti in piazza, a Piazza Vittorio dalle 16 in poi per il corteo. Roma non si chiude. Allo stesso modo una continuità, un filo rosso, una coscienza della storia che ci appartiene. Non possono altrimenti vivere se non ci si dota degli strumenti adatti affinché questa memoria rimanga non solo viva ma in movimento. Sia memoria che apra un futuro, apra una possibilità di futuro in base alla storia di queste lotte che sono state fatte. E quindi dopo un crowdfunding che peraltro è ancora in corso, è prevista l'inaugurazione della sede dell'Archivio dei Movimenti di Roma mercoledì 26 giugno alle ore 18 in via di Tor Pignattara 124. C'è uno spottino che gira in radio che vi ripeterà l'appuntamento: presentazione del materiale conservato nell'archivio, mostra di manifesti di lotta del periodo compreso tra gli anni 70 e 90 e poi l'aperitivo. Non mancate, quindi 26 giugno ore 18 via di Tor Pignattara 124 presso la sede dell'Archivio dei Movimenti di Roma, che sarà in quel giorno inaugurata. We'll be right back. difficile camminare sul ghiaccio, però la gioia del rischio che ti butta sul lago, correre ogni giorno sulla lama del piacere profondo per l'insicurezza. Cosa farete se lo schermo scoppierà? Cosa farete se lo schermo cadrà? Quando se ne andrà in mille pezzi, potrete contar soltanto su di noi. Mercoledì 26 giugno, ore 18:30, inaugurazione dell'Archivio dei Movimenti Sociali di Roma, via di Torpignattara 124. Presentazione del materiale conservato nell'archivio, mostra di manifesti di lotta del periodo compreso tra gli anni 70-90, aperitivo. Stiamo raccogliendo e inventariando le migliaia di documenti, manifesti, riviste, volantini prodotti nell'arco di 50 anni di lotte a Roma e non solo. Vogliamo mettere gratuitamente a disposizione di chi lo desideri questo materiale attraverso la sua informatizzazione, ma per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e tutte. Partecipa al crowdfunding a sostegno dell'archivio. Vai su Produzioni dal Basso Project, una sede per l'archivio dei movimenti sociali di Roma. Vieni a trovarci mercoledì 26 giugno alle 18:30 in via di Torpignattara 124. Non capiamo che, trascurando la nostra peculiare memoria, dimenticando per rinuncia o pigrizia quello che eravamo, il vuoto così creato si sarà, o già lo è, irrimediabilmente occupato da memorie altrui, che inizieremo a considerare nostre e che finiremo per rendere uniche. Tramutandoci così in complici e insieme vittime di una colonizzazione storica e culturale senza ritorno. José Saramago. Sabato 22 giugno, Roma non si chiude. Corteo per una città aperta, solidale contro gli sgomberi. Partenza ore 16 da Piazza Vittorio Emanuele. Noi non staremo a guardare, mobilitiamoci per costruire assieme le risposte ai veri problemi della nostra città. Ci vediamo tutte e tutti in piazza. Roma non si chiude. La vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne può più annà. Non se ne può più annà. Una brutta malattia si abbolle il twist nella tua testa. È una brutta malattia che ti strappassa e ti sconquassa. Che ti trascina nella fossa alle tue ossa dalla scossa con lo shake. Quel dannato satanasso ti ha spolpato fino all'osso. Fino all'osso! Quel dannato satanasso ti ha gettato nell'abisso. Nell'abisso! Ti agiti come un ossesso gimbale. Ci sembra più. E adesso mettiti in ginocchio. Muovi le braccia sulla testa. Scatenato senza sosta, posseduto dal demonio Belzebù. Con il chiese dell'esorcista scenderemo tutti in pista. Indiavolati alla riscossa. Questo è il ritmo che ha inchiodato il buon Gesù. Crocifisso ed incanta qualche giovane fesso. Ballo il Cristo crocifisso, sfoggia il suo passo di successo. Sembra proprio averla vinta con la spinta della Santa Trinità. Ma la bestia se ne fischia, si ricetta tosto nella mischia. Nella mischia! Ma la bestia se ne fischia, chioma un toro in forca a testa bassa. A testa bassa! Questa scaccia in corna e piscia, è sudato della pista e sempre rail. Adesso mettiti in ginocchio, muovi le braccia sulla testa. Scatenato senza sosta, posseduto dal demonio Belzebù. Con il chiese l'esorcista, scenderemo tutti in pista. Indiavolati alla riscossa, questo è il ritmo che ha chiodato il buon Gesù. Esci da questo corpo. In ginocchio, muovi le braccia sulla testa. Scatenato senza sosta, posseduto dal demonio Belzebù. Con i quiz dell'esorcista scenderemo tutti in pista. Indiavolati alla riscossa, questo è il ritmo che ha chiodato il buon Gesù. E adesso mettiti in ginocchio, muovi le braccia sulla testa. Scatenato senza sosta, posseduto dal demonio Belzebù. Oh madonna, che caldo qui, l'inferno è sceso da ste parti. E tra l'altro con i Ball Machine non è possibile stare fermi. Oggi siamo qui per te. Con noi bastardo e ce lo pagherai. E il prezzo che chiediamo il sangue tu lo verserai. E ancora un po' di parole, un po' di chiacchiere. È inutile pregare Dio. Il santo sangue del Signore non ti servirà lo... Sì, perché se i Bomb Machine ancora ci aiutano a promuovere il 28 di giugno al Forte Prenestino, presentazione del documentario che sta cominciando ad andare in giro, ci sono su internet, troverete sui vari Facebook, sui vari insomma queste robe qua, che noi snobbiamo e voi utilizzate, almeno in scrittura, per promozione, noi no. Ci sta tutto il tour dei Kina, quindi se non siete a Roma ci stanno 9 tappe, se non vado errato, 2 a Milano. Vabbè dai, poi ve la leggiamo la prossima settimana. Siamo tornati dall'inferno, dalle lande dei dannati, oggi siamo qui per... Basta sapere appunto che la prossima tappa è a Milano. E poi a Roma il 28. Invece adesso vogliamo così passare ringraziamenti, sì, perché Onda Rossa Festa è passata venerdì e sabato scorso, un gran caldo anche lì, una gran fatica, almeno per noi che ci siamo impegnati a cercare di fare al meglio l'Onda Rossa Festa 2019. La radio tutta intera. Ma non possiamo che ringraziare tutti e tutte hanno partecipato alla due giorni, quindi a tutti e a tutte voi che siete venuti e venute a sottoscrivere per la radio, a dare il vostro supporto, aiuto, contributo. Agli artisti che hanno partecipato, ai performer, eccetera, eccetera. Alle quattro band, Pat tra l'altro mi ha telefonato, oggi non gli ho risposto, quindi domani vedremo un po' come sta. Purtroppo venerdì stava male, non ha potuto suonare, quindi Pat è incollato in coda, ma ci ha dispiaciuto molto. Credo sia dispiaciuto anche molto a loro. Al duo Mastrella Rezza, che ci hanno presentato e chiacchierato con noi al termine della proiezione del film Milano via Padova. Reo Lumizze e gli altri due artisti che abbiamo avuto il piacere così di conoscere anche radiofonicamente insieme a tutte e tutti voi, in diretta dallo Strike S.P.A. A chi ha curato lo spazio Bimbi presentando il mio nome Amail Amail Erika Silvestri. Insomma, un po' a tutti e tutte in ordine sparso, abbiamo citato lo Strike, ovviamente il nostro saluto più importante è chi ci ha ospitato proprio, dedicando forze, energie, intelligenze, improvvisazione, insomma come è solito fare in questi momenti e succedere in questi momenti. Veramente un piacere è stato collaborare con loro, non solo dal punto di vista tecnico, così dell'organizzazione della festa, ma soprattutto dal punto di vista umano, quindi dell'incrocio proprio, dalla scintilla. Un sogno acido che mi brucia dentro, occhi di sci. Che si verifica quando si collabora per fare cose, quando si fa autogestione. Io vado giù. Allora, siccome. Wendy ci ha presentato anche dei nuovi pezzi e suonando per ultimi la sera di venerdì Oh, gli Hardcore, che ci hanno veramente deliziato con un bello spettacolo. Come sanno fare loro, fatto di atmosfere, di... Hey, hey. Io vado giù. Di passioni. C'è un mondo infame che aspetta, c'è un sogno bugiardo. Dicevo, gli Wendy hanno suonato per ultimo venerdì e, come succede spesso in questi casi, poi si arriva all'ora in cui bisogna spegnere tutto e quindi hanno dovuto un po' accorciare quella che era la loro esibizione. Quindi una cosa che sta girando ancora in automatico, forse la cosa che in partenza nel disco mi aveva convinto di meno, sinceramente. Esprimendomi sinceramente, invece poi ascoltandola anche nella promozione della festa, insomma, crediamo che sia invece una cosa tranquilla, però piena di significato. Ho cicatrici vere di rasoio in faccia. 8 for free, quindi Wendy gli è dovuto, dato che hanno dovuto accorciare il concerto. Allora li risentiamo ancora una volta, Radio Onda Rossa 25 o'clock. mortgage. He's got a house. Oh no! He's got a house. There goes the little boy inside. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. Goodbye, little boy. I'm 4 minuti dopo la mezzanotte. Underworld più l'iguana Iggy Pop. Johnny, he's got a mortgage. Quindi vi diamo appuntamento tutti e tutte sabato prossimo 22 giugno 2019 al corteo per una città aperta, solidale contro gli sgomberi, Piazza Vittorio, ore 16. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo di nuovo e credo che se riusciremo cercheremo di avere un contatto con Sergio, Alberto, Giampiero, non so, insomma qualcuno dei Kina, qualche altra delle band, ci organizzeremo in tal senso che suoneranno al Forte il 28 giugno prossimo, venerdì 28 giugno. Non prima di aver abbracciato tutti e tutte coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti. It's a bullshit game. It's a bullshit game. It's a bullshit game. And I'm trapped. Si riprende domani mattina con la consueta programmazione della radio che inizia con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali dalla città del resto del mondo da parte dei redattori della mattina di Radio Onda Rossa. alle 13 giornale radio e poi a seguire Spazio Comunicazione, Tutta Scena Cinema alle 14, alle 16 Attica Blues oltre al Black Music, alle 17 Le Schiene del Sole, alle 18 il Mezzedes del giovedì con annesso il Tabula Rasa, e alle 23 chiudono i Cuginetti di Apostasia. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, a risentirci mercoledì prossimo, dai! I'll share our dreams under a communist moon.